Il punto di Stefano Folli. Forza Italia è un partito che pesa ancora intorno al 18, forse 20% e non è poco, non ha altra scelta se non quella di concorrere alle riforme, chiedendo correttivi, è ovvio, ma senza mai mettersi di traverso del tutto. Questo punto dovrebbe essere chiaro e invece è una conquista quotidiana, perché Berlusconi è travolto dalla sua vicenda giudiziaria che fra un paio di giorni vedrà l'epilogo e gli altri vanno ciascuno per conto proprio. Quindi non è strano se ieri sera il vecchio leader ha telefonato a Renzi per garantirgli che Forza Italia non butterà a mare il fatidico patto sottoscritto qualche settimana fa. È un ritorno di realismo che smentisce Brunetta e Superfalco, ma non lascia tranquillo Renzi, perché se è vero che una rottura clamorosa sulle riforme non ci sarà, e tantomeno sulla legge elettorale, è altrettanto probabile che la strada del Presidente del Consiglio resterà tortuosa. Uno schiaffo e una carezza, in attesa che si arrivi al voto di maggio destinato a chiarire molte cose.